Noi siamo un'associazione che dal 2020 è in Bolognina, in particolare in via Antonio di Vincenzo, e cerchiamo di essere un luogo attraversabile da tutte e tutti nel quartiere per essere appunto luogo di aggregazione, essere fare pedagogia antirazzista e diciamo in un certo senso sostenerci un po' tutte insieme. Quello che succede è che appunto, visto che questa è la nostra mission, quindi noi siamo un'associazione culturale e non un'attività commerciale, siamo all'interno di uno spazio ACER che in realtà non prevede nessun tipo di, diciamo, locazione diversa da quella commerciale. E un po' perché siamo state piacevolmente travolte anche da un'utenza più alta rispetto a quello che prevedevamo inizialmente e di conseguenza all'interno di uno spazio piccolo facevamo fatica ad ospitare il giusto numero di persone, e un po' perché ci sono state comunque appunto gli strascichi della pandemia. Poi siamo un'associazione neonata, quindi abbiamo avuto necessità un po' di trarci, no? In qualche maniera siamo rimasti sicuramente indietro con degli affitti, quindi noi ammettiamo, no, il nostro dato di morosità, e ovviamente sono arrivate le notifiche ACER per lo strato. Comunque in questi 4 anni siete diventati un punto di riferimento all'interno del quartiere, che spesso, come dire, è anche bistrattato perché, come dire, organizzate molte attività anche per i più piccoli. Esatto, noi abbiamo intessuto delle belle relazioni con il quartiere, ma anche proprio, diciamo, si è un po' espansa a cerchi concentrici la nostra presenza, quindi a partire proprio dal portico di via Antonio di Vincenzo fino alla Pistoia Nervi. Quindi sì, siamo diventate punto di riferimento perché appunto da noi si può venire per fare spazio compiti 2 giorni alla settimana, per fare lezioni invece tête à tête per le adolescenti, per anche semplicemente se hai bisogno di uno spazio in cui appoggiarti un attimo perché devi lavorare a computer, le nostre associate vengono, oppure abbiamo lo sportello legale che tra l'altro è in rete con la rete SPAD del Comune di Bologna, e in più abbiamo promosso tantissimi eventi differenti come presentazioni di libri insieme a Capovolte con Libreria delle Donne, quindi copriamo veramente a 360 gradi le fasce d'età per stare insieme. Quindi sì, la presenza nostra è ben radicata, e in realtà noi siamo sicuramente preoccupate per quello che sta accadendo, ma cerchiamo sempre di guardare in avanti perché ci siamo accorte che il dato di realtà principale è proprio la mancanza di spazio. È vero che in questi 4 anni l'affitto vi è poi anche aumentato? Sì, per forza, perché con gli aumenti Istat c'è stato l'adeguamento dei dati Istat, e quindi per forza l'affitto che comprende all'interno di quello che ci arriva mensilmente c'è affitto acqua e riscaldamento, e quindi c'è stato l'aumento basico dell'affitto più le fluttuazioni di quelle utenze lì. Noi abbiamo un contratto di tipo commerciale, ma le nostre entrate non sono fisse in un'attività commerciale, figurati in un'attività come la nostra, che in uno spazio di 50 metri quadri a volte si è trovato ad accogliere 20 bambine, e ne potevamo accogliere anche 30 volendo, e di conseguenza potevamo avere un'entrata dalle terre. Noi siamo, per motivi appunto anche assicurativi, chiediamo una tessera associativa, e poi c'è, diciamo, un contributo volontario, perché cerchiamo sempre di renderci e rendere responsabili le persone che collaborano con noi, perché per noi non sono persone da semplicemente supportare, ma persone che collaborano con noi, quindi può essere anche portare una merenda, organizzare insieme una gita, quindi c'è questo scambio di saperi, di utilità reciproche, di conseguenza noi non possiamo ovviamente avere un'entrata fissa. Voi avevate anche presentato un piano di rientro? Sì, noi l'abbiamo presentato, è stato accettato, ci sono state un po' di vicissitudini come normale durante delle trattative, però al momento il piano di rientro è stato accettato, e noi entro il 10 di aprile dobbiamo comunque versare a testimonianza della nostra buona fede su questo piano di rientro una piccola percentuale del nostro debito, ecco, piccola tra virgolette, piccola rispetto a determinati canoni commerciali, non piccola per noi ovviamente. E a questo proposito avete anche lanciato una crowdfunding, insomma? Sì, noi abbiamo lanciato questo crowdfunding che si chiama sostieni le attività della Casa del Mondo a Jebadia. C'è la possibilità appunto di fare una donazione, quella che si crede sia la più giusta, altrimenti sui nostri social, in particolare su Instagram, trovate velocemente i link nella biografia, anche per il tesseramento online, perché a noi questa è anche una cosa che piace moltissimo, più che la donazione in sé per sé, cioè noi diciamo grazie ovviamente a qualsiasi donazione, ma ci piace molto l'idea di avere delle tesserate per essere, dimostrare la nostra forza di collettività, e quindi c'è il link al modulo da compilare per tesserarsi alla nostra associazione. Anche lì c'è 12 euro è la tessera, è la nostra tessera corrente, poi ovviamente ci sono altre formule a seconda di una persona cosa preferisce versare, ecco. Chiediamo assolutamente sostegno, ci teniamo a sensibilizzare sulla cosa, ma ci fa sempre molto piacere se ci passate a trovare e partecipare alle nostre attività. Ad esempio mercoledì alle 19:30 proietteremo un lungometraggio di Reda Zine che si chiama The Long Road to the Hall of Fame ed è la storia di uno delle bodyguard dei Public Enemy, e quindi ci terremmo che partecipaste.